America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, ormai abbiamo archiviato il Natale, ci prepariamo all'anno nuovo e come vi avevo anticipato vorrei così fare un po' una carrellata su quello che è successo nel 2015, su quello che ci attende nel 2016. E devo dire che se dovessimo dare uno sguardo d'insieme a quello che è capitato nel 2015 in modo molto generale, è successo di tutto. Abbiamo avuto la crisi degli immigrati, i rifugiati dalla Siria, il Medio Oriente che è sempre più ingolfato in una crisi da cui non sembra possibile uscire, la Russia che continua a insistere nell'aggredire l'Ucraina e così via, così via. Insomma, sotto ogni punto di vista abbiamo avuto una situazione caotica, devo dire anche all'interno degli Stati Uniti, perché c'è stato un fortissimo problema, per esempio razziale, i neri che sono stati colpiti in modo molto aggressivo dalla polizia, le reazioni, le dimostrazioni dei neri, l'economia che va avanti ma presenta qualche difficoltà, il presidente Barack Obama che cerca di portare avanti i suoi obiettivi però poi non ci riesce proprio perché c'è una situazione internazionale che ha messo gli Stati Uniti in una posizione difensiva. Insomma, in questa situazione caotica cambia un po' l'ordine mondiale. Per esempio, la Russia non è più nel G8. Ecco, io vorrei puntare proprio su questo aspetto un po' caotico in cui ci troviamo. Pensiamo anche a quello che è successo in Europa, la crisi della Grecia. E ho con me i microfoni di America 24, posso dire assolutamente l'esperto del momento in materia di caos, e cioè Federico Rampini, amico, collega, corrispondente dagli Stati Uniti per Repubblica, che ha pubblicato da poco un libro che si intitola proprio L'età del caos, un libro uscito con Mondadori. Federico, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora Federico, in effetti non poteva essere più azzeccato, perché se c'è qualcosa che definisce quello che è stato il 2015 è il caos, è una situazione caotica. La prima domanda che ho per te è: guardando al 2016, tu vedi che questo caos possa continuare? C'è un caos che magari diventa ancora più caotico, oppure forse una volta identificati i parametri si cerca di raddrizzare la situazione? Il caos è destinato a continuare, rispondo senza esitazioni. Del resto, uno dei punti di partenza del mio libro L'età del caos è proprio questo: dobbiamo abituarci a convivere con il caos, dobbiamo attrezzarci a comprenderlo, dobbiamo rassegnarci al fatto che questa diventa la condizione permanente del mondo in cui viviamo in un orizzonte temporale abbastanza lungo. E nel libro spiego anche perché, cioè non mi limito a elencare la mappa dei focolai del caos che vanno appunto da quello geopolitico internazionale a quello interno alle democrazie, dal caos economico a quello ambientale, ivi compreso quello tecnologico, però cerco anche di trovare le cause, le spiegazioni. Allora, una di queste, che mi permette di dare una risposta così perentoria alla tua domanda, è che siamo in un periodo di transizione lunga. La scomparsa di un ordine antico, vogliamo chiamarlo la Pax Americana, comunque un'egemonia di un certo mondo. Io guardo proprio per i periodi lunghi della storia, addirittura i 5 secoli di egemonia dell'uomo bianco sul pianeta che si stanno chiudendo sotto i nostri occhi. Un ordine vecchio non c'è più, ma non c'è neanche pronto un ordine nuovo che possa sostituirlo. Non esistono le condizioni per una Pax cinese, tanto meno russa o araba, non ne parliamo, e quindi entriamo in una fase di transizione turbolenta e instabile che durerà a lungo. Ecco, Federico, quanto secondo te ha contribuito a questa situazione caotica il fatto che il mondo è entrato nell'era di internet, cioè in un'era in cui tutti hanno accesso a tutto in tempo reale, il pensiero cambia molto più rapidamente, non c'è Time Magazine che fa una sua copertina e tutti si allineano, ma ci sono 1000 copertine, 1000 pensieri diversi. Ecco, secondo te internet, che ha contribuito molto alla produttività, ha anche contribuito al caos? Certamente, e infatti uno dei capitoli lo dedico proprio al caos tecnologico, e questo è un capitolo dove mi lascio anche sedurre da una visione positiva del caos, perché quando comincio a occuparmi di caos tecnologico devo per forza ritornare in un luogo dove ho anche vissuto un pezzo della mia vita, cioè la Silicon Valley, la California, e lì incrocio dei personaggi, i ventenni che elaborano il nostro futuro, i quali hanno una visione molto positiva del caos, considerano che il caos è un'opportunità, non cercano di ristabilire un ordine perduto, anzi per loro l'ordine è sinonimo di immobilismo, mancanza di dinamismo, di innovazione, l'ordine è l'ordine del vecchio establishment capitalistico che loro vogliono assaltare, destabilizzare, scardinare. Mi affascina il fatto che l'aggettivo più di moda in quella parte del mondo dove si disegna il nostro futuro è l'aggettivo disruptive, che vuol dire dirompente, ma anche proprio nel senso distruttivo. A loro piace il caos, e questo spiega poi perché certamente internet è anche un moltiplicatore di caos. Ecco Federico, cioè a un certo punto tu nel tuo libro, anche verso la fine, insomma, fai un po' una sintesi, e tra l'altro appunto nella tua conclusione dici siamo solo all'inizio, proprio come ci dicevi poco fa, però fai anche delle riflessioni sul fatto che dall'Ottocento a oggi molte cose sono migliorate, c'è il caos come tu stesso dicevi, apprezzato dai giovani in California, e c'è il caos che invece è distruttivo, quindi c'è un caos creativo e un caos distruttivo. Ecco, secondo te come possono essere identificate queste due forme di caos, quello creativo e quello distruttivo? E non è facile, devo dire che anch'io procedo a tentoni, mi rendo conto che una delle risposte può essere di tipo generazionale, cioè oltre una certa età e oltre una certa percentuale di capelli bianchi si tende a privilegiare la stabilità, si ha paura del nuovo, quindi c'è anche un aspetto psicologico, mentre i ventenni per definizione sono più avventurosi. Quindi può esserci anche questo discrimine generazionale, per cui il caos spaventa di più oltre una certa età. Poi ci sono invece delle risposte più evidenti, se il caos geopolitico è sinonimo di guerre civili, di terrorismo, evidentemente è solo un segno meno, è soltanto distruttivo. Se invece stiamo parlando di un caos tecnologico che per esempio è parallelo alle avanzate dell'intelligenza artificiale, a tutto quello che può rappresentare di nuove conquiste, per esempio nella ricerca genetica, la lotta contro malattie come l'Alzheimer e il Parkinson, dove l'intelligenza artificiale potrebbe darci una marcia in più, accelerare il progresso, e qui è evidente che è solo positivo. Quindi poi sta a noi anche crearci un nuovo sistema di orientamento dentro un mondo caotico per distinguere tra quello che possiamo trasformare in opportunità e invece il caos dal quale dobbiamo proteggerci, non potendolo cancellare. Ecco Federico, guardiamo al 2016 che sta per arrivare. Schumpeter, la distruzione creativa del capitalismo, vale sempre? E un'altra domanda sul piano più politico, quali saranno secondo te i pericoli principali che ci attendono sul piano del terrorismo e della politica nel 2016? Vale sempre Schumpeter, anzi direi che forse pochi economisti sono così attuali come Schumpeter, se si guarda ad esempio alla Silicon Valley, all'innovazione tecnologica nell'economia digitale. Le conseguenze della distruzione creatrice naturalmente a volte sono sconvolgenti, per esempio il 2016 sarà senz'altro caratterizzato da un'America che reduce ormai da più di 6 anni di crescita, avrà cominciato a imboccare la strada dei rialzi dei tassi di interesse, mentre tutte le nazioni emergenti sono incappate in turbolenze serie, e anche la Cina è un caso di distruzione creatrice, cioè la Cina incarna una grande, gigantesca economia che si è lanciata alla rincorsa del modello americano e doveva per forza incappare nelle sue turbolenze, nelle sue tempeste. Non esiste uno sviluppo capitalistico lineare, tranquillo, ordinato, ci sono sempre le crisi fanno parte dello sviluppo. sviluppo. In quanto alla politica, beh, sarà anche l'anno delle elezioni americane, ovviamente, con tutto quello che può comportare di cambiamenti nella leadership della più grande democrazia e della più grande potenza mondiale. Un tema che certamente ci accompagnerà tutto il 2016 sarà la crisi di sfiducia interna alle democrazie, che è una cosa molto molto profonda, lo vediamo in Europa, e il terrorismo, io credo che su quello il realismo con cui Obama ne parla mi convince molto, è una lotta di lunghissima durata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Federico, sei sempre qui con noi. E dunque, che canzone vogliamo scegliere adatta a questa età del caos in cui ci troviamo, come ci spieghi nel tuo libro? Secondo me la migliore è Sympathy for the Devil dei Rolling Stones. Simpatia per il diavolo. Simpatia per il diavolo? Beh, il diavolo che contribuisce al caos dei Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!